Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, nessuna è perfetta, lo diciamo nel titolo, e talvolta è imperfetta anche la nostra vita professionale. Quando ci capita di pensare che forse sarebbe arrivato il momento di cambiare, e ce lo diciamo giorno dopo giorno, devo cambiare lavoro, devo cercarmi un'altra cosa, ho in mente delle cose che mi piacciono e che potrei fare, ma la paura ci trattiene il timore di non trovare, che ne so, qualcuno che ci prenda sul serio, il timore, se vogliamo metterci in proprio, di non trovare i finanziamenti per farlo. Tante cose che frenano la nostra voglia di cambiamento. Ecco, questo è il tema della puntata di questa domenica. Cambiare si può? Sì, si può. Vediamo come farlo, e intanto cominciamo con il nostro agente provocatore, che nella sua vita ha cambiato lavoro pur senza cambiarlo del tutto. Cambiare vita, cambiare lavoro. L'agente provocatore di questa domenica, di vite ne ha cambiate molte pur rimanendo fedele alla professione. L'agente provocatore è Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, scrittore, conduttore televisivo. Buona domenica, Massimo Giannini. Grazie. Di vite, di cambiamenti ce ne sono stati tanti, anche se la figura del giornalista è quella alla quale sei fedele dall'inizio. Però, per esempio, ci vuole forse una certa dose di coraggio come quella che hai avuto tu. A un certo punto lasci Repubblica e decidi di fare il conduttore televisivo. La lasci avendo un ruolo pesante, quello di vice direttore nel quotidiano diretto all'epoca da Mario Calabresi, mi pare, vero? C'era ancora Ezio Mauro. Ecco. Sì, sì. Facendolo appunto avendo molti anni di professione alle spalle, avevi un po' di paura o l'hai fatto, come dire, in totale supplesse? No, ti devo dire la verità, paura no. Ero in una fase della mia carriera nella quale mi sembrava arrivato il momento, cosa che mi è capitato anche in altre fasi della mia vita professionale, di misurarmi con qualche cosa di nuovo, di diverso, che quindi mi desse un po' di altri stimoli. A questo aggiungi un fatto: noi giornalisti, soprattutto quelli di noi che sono nati e cresciuti nella carta stampata, ci siamo riempiti e ci riempiamo tuttora la bocca da settimane, mesi, anni, con l'idea che occorra accrescere la nostra capacità di essere multidisciplinari e di saper maneggiare, manovrare, conoscere tutte le varie piattaforme, sì, attraverso le quali, sì, si sviluppa l'informazione. Diciamo che dobbiamo, no? Essere multimediali. No? Esattamente, sì. Esattamente. Ecco, e quindi non c'è più solo la carta stampata, ma anzi la carta stampata vive una fase di declino a beneficio di cosa? Essenzialmente della rete, il web, i social network, tutto questo. E insieme a questo però anche la televisione. Quindi io, dopo averne parlato tanto di questa opportunità, di questa necessità, quando ti hanno proposto, si è creato, sì, ho detto beh, forse è il momento di metterla in pratica e di vedere se questa esperienza può davvero aumentare la cifra professionale di chi decide di affrontarla, correndo anche dei rischi. Perché ecco, dei rischi poi è andata bene, perché soprattutto poi alla luce dei successivi esiti, tu l'hai detto, l'ho detto io, quelli che sembravano dei risultati di share che non facevano concorrenza abbastanza, in realtà poi si sono rivelati degli share eccellenti, facendo le dovute proporzioni. Però siccome dopo 2 anni qualcosa è cambiato e ti hanno detto bene, grazie Massimo Giannini, ma in Rai lei la sua, diciamo, il suo contributo si chiude qui. Sì, come Miss Italia, no? Sì. Massimo Giannini, per te Ballarò finisce. Ecco, tu sei comunque convinto del cambiamento, della validità del cambiamento? Sei contento di aver fatto l'esperienza, di aver cambiato, di aver corso un rischio? Oh, assolutamente sì. Intanto fammi dire appunto che il problema di quei 2 anni del Ballarò che ho condotto io non erano gli ascolti, come poi i fatti appunto hanno dimostrato, anche perché in quei 2 anni, sia pure in un quadro anche lì di crisi complessiva della TV generalista e quindi anche di flessione degli ascolti di tutti quei format, sì, del famoso o famigerato talk show politico, tuttavia in entrambi i 2 anni come ascolti medi il Ballarò è arrivato in testa a tutti gli altri, quindi il problema non erano gli ascolti, c'è stato un rilevante problema di compatibilità politica, vogliamo chiamarlo così, rispetto al governo Renzi, per cui alla fine le scelte sono state diverse, ma la RAI legittimamente le fa, a me scadeva il contratto, quindi nulla di scandaloso. Certo, c'è poi da riflettere, da interrogarsi sul per quale motivo la politica è ancora così saldamente una presa sulla RAI, ma questo è un discorso più ampio, sì, che non possiamo fare adesso. Detto questo, ecco, per venire alla tua domanda, no, io non sono stato affatto pentito, perché anzi ho considerato quel biennio una straordinaria esperienza, sia dal punto di vista professionale, cioè più tecnico, l'acquisizione di una serie di conoscenze, di uno strumento per me nuovo, io lo avevo, diciamo, conosciuto fino ad allora soltanto come ospite televisivo, ma fare l'ospite televisivo è tutt'altra cosa. Fare un programma, avere la responsabilità di un programma è assolutamente un'altra cosa. Esatto, certo. Poi è un programma di prima serata, certo, più importante per la RAI in quel momento, di 3 ore di diretta, insomma, francamente è un impegno non da poco ed è anche molto affascinante, perché capisci tutta la grande potenzialità che la televisione ti mette a disposizione, anche con un limite che è rappresentato dalla esigenza di super semplificazione di certi argomenti, che fa molto diversa la TV rispetto alla carta stampata. Ma cambiare lavoro a 50 anni, tu lo consiglieresti? Guarda, è complicato, perché io mi rendo conto di rappresentare intanto una nicchia e poi una nicchia anche abbastanza privilegiata. Certo, perché tu sei tornato al giornale al quale dal quale eri venuto, sia pure con una posizione diversa, ovviamente, certo, però sì, sono tornato a casa da questo punto di vista e quindi per questo parlo anche di, diciamo, una sorta di privilegio rispetto al mercato complessivo del, sì, lavoro. Oggi è un po' diverso, un cinquantenne che cambia lavoro deve fare i conti con dei punti interrogativi molto nel pressanti. Nostro paese, soprattutto se tu hai visto, e credo insomma chi ha letto i giornali ne ha avuto contezza, il rapporto Istat uscito qualche giorno fa ci dice clamorosamente e direi dolorosamente quanto è ferma l'ascensore sociale del nostro paese e quanta poca prospettiva hanno da un lato i giovani che entrano nel mondo del lavoro e dall'altro gli ultra cinquantenni che escono dal mondo del lavoro. Sono due cifre che ti hanno particolarmente colpito del rapporto Istat. Ma guarda, mi ha colpito un po' tutto, perché purtroppo è una fotografia davvero allarmante di un paese immobile e completamente sfiduciato. Dal quale sono sparite alcune categorie. Ecco, sì, sono sparite le classi sociali, per come marxianamente, diciamo così, le avevamo immaginate e conosciute nel corso degli ultimi decenni. Sono spariti gli operai ed è sparito il famoso ceto medio, che anche dal punto di vista politico è stato l'araba fenice di tutti i partiti di massa, no? Perché chi aveva in mano dal punto di vista elettorale il ceto medio vinceva le elezioni. E oggi il ceto medio non c'è più, cioè si fa fatica a delimitarne il perimetro, e comunque la cosa che diciamo, i dati che colpiscono molto sono quelli che riguardano da un lato la povertà. Noi abbiamo quasi un quasi 2 milioni ormai di famiglie in povertà e il 22% della popolazione addirittura che rischia l'esclusione sociale. Questo è il primo dato con il quale clamorosamente dobbiamo confrontarci. Su questi dati, in chiusura, Massimo Giannini, sembra quasi una provocazione suggerire alle nuove generazioni di essere aperti ai cambiamenti, siate affamati, siate folli, come diceva Steve Jobs. Infatti io, guarda, lo ricordavo proprio qualche giorno fa in una tavola rotonda alla quale peraltro presenziavano tutti i ragazzi, studenti neolaureati o laureandi, e ricordavo proprio la frase di Steve Jobs, no? Stay hungry, stay foolish, e dicevo, a forza di stare affamati e un po' folli, purtroppo molti dei nostri ragazzi si ritrovano, rischiano di ritrovarsi in coda alla mensa della Caritas oppure sul lettino dello psicanalista, e noi dobbiamo porci drammaticamente questo problema, perché poi l'altra faccia di questo problema qual è? È la fuga dei cervelli cosiddetta, ma ormai non sono più soltanto i cervelli, non scappano più soltanto gli ingegneri, se ne vanno anche i camerieri, questo è il vero problema, e se noi non consideriamo questa la priorità assoluta, e quando dico noi non intendo dire ovviamente solo noi che facciamo i giornali o le televisioni, ma mi riferisco soprattutto alla politica, beh, questo paese non ha futuro, perché se sommi a questo il dato anagrafico e demografico, anche questo è venuto fuori dall'Istat, siamo il paese più vecchio dell'Europa, esattamente, siamo condannati, un paese così non può che declinare e la politica non lo deve permettere. Grazie Massimo Giannini. Grazie, l'agente provocatore di questa domenica. Grazie e buona domenica a te. A voi, buona Grazie. Domenica. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno col nostro momento Sunday Girl, e questa domenica è una Sunday Girl veramente simpatica. Buona domenica Carla Signoris, attrice, comica, scrittrice divertente, doppiatrice. Buona domenica. Domenica a tutti. Allora, buona domenica l'abbiamo lasciata nel film di Francesco Amato, Lasciati andare, in cui è la ex moglie del protagonista di Elia, che sarebbe poi Tony Servillo, psicanalista annoiato dalla professione e annoiato da tutti, compresa l'ex moglie, che poi è Giovanna, Carla Signoris. Esatto, annoiato e noioso, perché è un uomo grigio, bolso, chiuso nel suo studio, dove mentre i suoi pazienti parlano e svelano cose terribili della propria vita, lui mangia pasticcini e dorme. Quindi veramente un brillante, uomo infrequentabile. Una bella coppia effervescente. Esatto. Mentre invece Giovanna, il mio personaggio, abita sullo stesso pianerottolo dell'ex marito, continua a fargli il bucato, ogni tanto vanno a teatro, però a un certo punto dice basta, adesso comincio a divertirmi anch'io, e comincia una nuova relazione. Da quel momento Elia decide che è il momento di cambiare, che lui deve rimettersi in forma, perché sennò questa la perde. Ecco perché c'è questo elemento, il cambiamento sotto costrizione. Molti di noi non cambiano se non c'è una ragione, una pressione. Per esempio Carla Signoris, che cosa ha cambiato nella sua vita perché è intervenuto un elemento esterno che ha costretto a cambiare qualcosa? Guarda, il mio elemento esterno sono due elementi esterni, sono due figli, quelli mi hanno costretto a cambiare tutto. Però meno male che mi hanno costretto a questo cambiamento. Prima facevo qualsiasi lavoro, mi piaceva, accettavo qualsiasi proposta di lavoro sempre. Dopo che sono arrivati loro... Sei diventata più selettiva. Sì, ho dato delle priorità e la priorità, ahimè, sono sempre loro, sono sempre i miei figli. Ma adesso sono grandi però. Cominciano, sì, un pochino di più. Uno ne ha 18, l'altro ne ha 16, sono in piena maturità quest'anno con quello di 18, quindi... Sì, coraggio. Sei insieme a molte mamme. In questo momento molte mamme si sentono parte dello stesso progetto di vita, tipo hai studiato, prenditi il ricostituente, vai a letto presto che domani c'hai l'esame. Non ti invidiamo. Senti, ma per la tua protagonista, questa ex moglie Giovanna, non è un po' singolare? Non trovi che sia un po' singolare questo rapporto, comune a tantissimi, di separarsi, divorziarsi e poi continuare ad accudire l'ex marito? Ma sai, alla fine quando i rapporti sono comunque non si deteriorano nel senso di arrivare proprio alle mani o al dolore, quando due... Di fatto questi due non si sono mai lasciati in realtà, hanno deciso di dividere l'appartamento, per cui poi quando ci sono appunto i figli o le cose, io credo che alla fine non finiscano mai i rapporti se comunque c'è stato dell'amore. È chiaro che poi invece se tutto si deteriora finiscono e come, finiscono anche male. In questo film non raccontiamo questo. Anche perché questo film poi finisce in maniera anomala, non vorrei svelare l'assassino, ma... No. Dunque, io... Anomala perché lui alla fine fra la ragazza di 20 anni e la ex moglie sceglie di stare con la ex moglie. Dunque, ma... Nel cinema si finisce con la ragazza di 20 anni. È il contrario, sì. No, nella vita no, cioè abbiamo Macron che tiene per mano la Brigitte di 64 anni, una bandiera per tutte le cougar. Super idolo Macron, lei Brigitte fantastica, ma Macron un super idolo, un uomo che non ha paura di essere giudicato invece di avere a fianco la ragazzina da esibire a una donna, ma fantastico. Beh, 100 punti. 100 punti. Ma per quello che riguarda appunto le role model, secondo te il fatto che tante cougar, come si chiamano adesso, ultra cinquantenni, abbiano senza particolare problema un ragazzo di 30 anni più giovane o di 40 anni più giovane, è una moda? Questi ragazzi qui in realtà, diciamola tutta, le sfruttano? Oppure no, c'è dell'equilibrio è probabile che ci siano sfruttatori, probabile che chi lo fa per moda, o è probabile anche che ci siano rapporti che diventano stimolanti anche in questo senso, cioè non me lo pongo questo problema. È chiaro che siamo molto meno attuali una donna più grande con un ragazzo più giovane rispetto al contrario, cioè un uomo più vecchio di una della propria compagna è assolutamente normale, certo, nessuno batte ciglio. Adesso cominciamo forse A riequilibrare la cosa. A riequilibrare la cosa. L'ultima domanda per Carla Signoris, che poi deve lasciarci in questa domenica mattina, ma la gentilezza è contagiosa, me ne accorgo tutti i giorni. Se sorridi a qualcuno lo accogli e l'altro ti risponde allo stesso modo. L'hai detto dopo due aperitivi o lo pensi davvero? No, lo penso davvero. Penso che la gentilezza sposti l'attenzione da noi all'altro e questo fa subito sì che l'altro si senta in qualche maniera accolto. Il sorriso. Credo che sia un ottimo modo per iniziare la giornata e anche per finirla. E anche per finirla, infatti. Allora aspettiamo con ansia il prossimo libro di Carla Signoris, che non l'ha ancora cominciato a scrivere, ma promette di farlo. E quale sarebbe l'ispirazione questa volta? No, dai, no, aspetta, prima fammela mettere giù perché cambierà altre 200 volte prima di pagina 1. Vabbè, cominciamo con pagina 1 e poi vieni a raccontarci come finisce qua. Ti aspettiamo. Grazie Carla Signoris, buona grazie domenica. Maria. Grazie. Un saluto a tutti. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo è eccelso, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30, con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di lavoro e di capire il momento giusto per cambiarlo, quando arriva il momento di cambiare aria. E lo facciamo prendendo spunto dalla lettera che ci è arrivata a scriverci via mail. È Giulia. La prima volta sono scappata dalla noia, relegata nel retro di un negozio di tessuti ad aspettare clienti e fantomatiche telefonate. Allora ci chiamavamo contabili. Ho impiegato 2 settimane, ed ero molto giovane, per capire che quella vita non faceva per me. Mi sono licenziata ancor prima di essere assunta. La seconda volta, invece, lavoravo nella pubblicità e da contabile ero diventata account. Ma dopo 3 anni la situazione è diventata così stressante e ci mettevo così tanto ad arrivare al posto di lavoro che trovato il coraggio di lasciarlo anche se non mi dispiaceva fare l'account. Oggi lavoro in proprio, ho un piccolo studio e mi domando: troverei il coraggio di cambiare vita e professione un'altra volta? Con la crisi economica ormai il lavoro è diventato quasi un privilegio. Vi sembra giusto? Il lavoro è diventato quasi un privilegio e chi ne ha uno se lo tiene, ha paura del cambiamento. Eppure il cambiamento talvolta diventa indispensabile. Ma quando arriva il momento giusto per cambiare? Vediamo che cosa ne pensano i nostri esperti di questa settimana. Carla Ciani, la coach che conoscete perché è con noi spesso ogni domenica, e Paolo Gallo, capo delle risorse umane del World Economic Forum e autore di La bussola del successo. Benvenuti, benvenuti a tutti e due. Nella bussola del successo, Paolo Gallo, c'è un capitolo proprio dedicato a quando è il momento giusto di andar via. Quando arriva questo momento? Grazie per avermi invitato. Ho intitolato un capitolo del mio libro Should I Stay or Should I Go, che è una bella canzone dei Clash, che è sostanzialmente la domanda che ci facciamo spesso nella nostra vita professionale: qual è il momento giusto di andarsene, no? E dal punto di vista tradizionale c'è sempre l'idea del tempo, devi stare 3 anni, devi andarne dopo 7. Io credo invece ci siano delle cose più importanti e più valide rispetto alla semplicemente alla tempistica. E Questa non è una domanda accademica, è una domanda vera, perché sostanzialmente per fare un lavoro tu devi migliorare, devi aumentare quelle che sono le tue conoscenze e le tue esperienze. Se la risposta è negativa, bisogna fare delle riflessioni serie. La seconda, stai contribuendo, perché nessuno vuole essere in un posto di lavoro senza poter dare qualcosa in cambio, no? Fare i parassiti, non, nessuno vuole farlo, quindi devi dare qualcosa in cambio. La terza, sei rispettato, e il rispetto non è solo una questione di educazione, è far parte di un team di cui ti fidi, avere un capo con cui puoi avere delle conversazioni, puoi essere aperto e avere sostanzialmente la consapevolezza di essere rispettato nell'ambito del lavoro e dare rispetto a tu stesso, alle persone che ti stanno intorno. Se ad ognuna di queste domande la risposta è positiva, vale la pena continuare. Se è negativa, anche soltanto in una di queste domande, bisogna fare delle riflessioni e andarsene in un altro posto. Però dice giustamente la nostra ascoltatrice, è un problema coltivare l'idea del cambiamento in una fase storica in cui chi ha il lavoro si sente un privilegiato. Carla Ciani, la soluzione all'insicurezza, cioè ammesso che la risposta sia sì a tutte e tre le condizioni che citava prima Paolo Gallo, se subentra l'insicurezza di dire vabbè, ma io un lavoro ce l'ho, come faccio a cambiare se poi non lo trovo uno nuovo? Mi pare che l'ascoltatrice abbia proprio giusto sperimentato le due condizioni del cambiamento, quello autoimposto, quindi lei a un certo punto ha fatto una scelta, è stata l'agente determinante del suo cambiamento, e il cambiamento invece imposto. In entrambe le condizioni ci sono delle cose che ci guidano nella decisione di cambiare, che sono le motivazioni al lavoro, che sono davvero anche un piccolo strumento, no, per aiutarci. Noi tutti abbiamo delle motivazioni tangibili e intangibili al lavoro, ovvero io posso essere tangibilmente motivata per i benefit che ho in quel contesto lavorativo, piuttosto che il brand e i suoi valori, la reputazione di quell'azienda, o semplicemente il fatto che è un'azienda solida che penso continuerà a pagarmi lo stipendio per i prossimi 10 anni, o mi dà delle condizioni che ne so, assicurative, o dove il mio ruolo è ben codificato, è ben rappresentato. E dall'altra parte, dal punto di vista più, come dire, intangibile, lì mi sento sicura, penso di poter essere gratificata, ho un rapporto di fiducia, potrò stare in un ambiente in cui anche la mia persona avrà dei benefici. Allora, cercando di analizzare queste motivazioni, posso capire che cosa non ho in quel momento e a che cosa non voglio più rinunciare. E quindi cerco dentro di me quello che ho patrimonializzato, quindi le mie competenze, le mie esperienze, ma anche le mie capacità di pormi in un nuovo contesto, di intrattenere relazioni, di dare un contributo vero, no, autentico, sì, a quella situazione. E allora con questa modalità non solo emozionale ma anche razionale, capire, no, spuntare questo elenco, dire ok, io posso rinunciare, no, sì, a dei benefit in funzione di una maggiore gratificazione, per esempio, oppure mi interessa molto il prestigio, quindi il brand sarà così importante per me. Chiaro. Vorrei tornare da Paolo Gallo, che come direttore delle risorse umane, non soltanto al World Economic Forum, ma in passato in tante altre organizzazioni internazionali, ha una visione che non è quella italiana. Noi in Italia, caro Gallo, abbiamo una percentuale di cambiamenti molto bassi, perché c'è una grande fase di immobilismo economico nel paese. Da competente delle risorse umane, qualcuno viene e dice io vorrei cambiare ruolo rimanendo dentro l'azienda, come viene preso, bene o male? Adesso è un'opportunità valida sia per l'azienda che per il dipendente, quindi sostanzialmente devono essere in due a guadagnarci. Le aziende tendono a prendere una persona, poniamo per un lavoro A, e se una persona vuole fare il lavoro B, dice no, io ti ho preso per fare il lavoro A, rimani qui. Le aziende che fanno così hanno una visione molto limitata nel gestire le persone, perché le vedono come dei limoni da spremere in quel momento lì, in quel lavoro lì. E questo porta fondamentalmente alla noia e a una situazione, e le persone poi se ne vanno comunque. Le aziende in gamba intelligenti cercano di avere un percorso formativo interessante, deve essere anche ragionevole. Se una persona inizia a lavorare lunedì e vuole cambiare martedì, ovvio la risposta non può che essere negativa, e se gestisce le persone intelligenti facendo un percorso di carriera, di formazione anche in termini geografici, quindi fare lo stesso lavoro da un'altra parte è una cosa diversa. Io ho fatto lo stesso lavoro tutta la vita, ma l'ho fatto in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Brasile, in Thailandia, e questo mi ha permesso di così acquisire conoscenze diverse, anche se magari il mestiere è lo stesso. Quindi sostanzialmente l'azienda deve essere intelligente nell'offrire non soltanto un lavoro, uno stipendio, ma un percorso di formazione, di crescita serio. Le persone devono sposare questo programma nell'investire nel loro crescimento, nell'uscire dal loro comfort zone, e questo in genere è un presupposto di un matrimonio felice, di una carriera contenta. Se invece una persona si blocca in una posizione o l'azienda la blocca, in genere è un matrimonio che non funziona. Dopo poco tempo subentra la noia, la soffocazione, le dimissioni o peggio ancora il licenziamento. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo su... Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Nessuna è perfetta. Ecco, questa è l'ultima parte, lo sapete, di Nessuna è perfetta. Parliamo ancora di cambiamento, di come cambiare lavoro anche a 40 o a 50 anni. Lo facciamo con Carla Ciani, la coach che conoscete perché è con noi spesso ogni domenica, e Paolo Gallo, capo delle risorse umane del World Economic Forum e autore di La bussola del successo. Quando l'intelligenza dell'azienda non c'è, Carla Ciani, e quindi una persona, come ha fatto nella lettera che ci ha scritto Giulia, arriva alla conclusione che non c'è futuro in quella dimensione lì, c'è un po' un salto nel vuoto. La soluzione spesso è aprire una piccola cosa che si gestisce da soli. Le donne lo fanno spesso. Ci vuole molto coraggio nel diventare piccole imprenditrici di se stesse. Sì, ci vuole coraggio, ci vuole metodo però, e questo se si ha avuto la possibilità di fare esperienza all'interno dell'azienda, credo che sia un ambito in cui noi donne dobbiamo migliorare. Noi andiamo molto con l'impulso anche creativo, con questa voglia di magari anche riscatto e con anche una grande dedizione, un grande impegno. Invece che cosa possiamo suggerire? Tre o quattro cose che bisogna avere chiare quando si decide di lasciare un'azienda e mettersi in proprio, come ha fatto per esempio Giulia, a fare la contabile da sola. Io ho capito che si occupa di condomini, lo spiegava meglio nella lettera, ma insomma che cosa bisogna avere chiaro per mettersi da sola? Bisogna avere chiaro che l'azienda, che si chiama persona ma giuridica, è qualcosa che è il risultato delle nostre capacità, competenze ed esperienze, ma ha una sua vita quindi bisogna essere in grado di progettarla, la sua vita, quindi essere in grado di avere un buon piano strategico, un network, un investimento corretto e strutturato nella conoscenza dell'azienda, mettere nell'azienda dei valori che possono essere anche i valori della persona ma declinati. Ma facciamo che uno si prende 3 o 4 condomini da gestire, parliamo di cose un po' terra terra, quali valori vogliamo? Cioè la contabile che decide di mettere a disposizione la propria capacità di contabile per gestire un po' di condomini, di che cosa deve aver chiaro? Che soprattutto deve saper gestire tanti conti diversi, non deve essere una pasticciona, per esempio. Deve essere molto organizzata, deve essere puntuale, deve essere precisa, deve accogliere e anticipare i bisogni del cliente, deve saper comunicare esattamente anche le cattive notizie, quindi deve avere una buona capacità comunicativa a tutti i livelli, deve sapere usare bene la tecnologia, deve inquadrare i suoi clienti nel contesto situazionale corretto, deve essere in grado di fare un piano di tariffe coerente e saper parlare anche del suo compenso in maniera sicura e serena, cosa che le donne fanno malissimo, perché gli uomini prima chiedono e poi fanno, come si dice, le donne prima fanno e poi chiedono, e quindi se noi mettiamo questo modello femminile nell'impresa non funziona così bene. Certo. E avere poi un buon sistema di controllo, quindi affidarsi a qualcuno che possa darle dei feedback puntuali e precisi sugli esiti della sua gestione ed essere aperta a aumentare, come dire, le sue competenze, rafforzare le competenze manageriali, non solo imprenditoriali ma manageriali. Paolo Gallo, in chiusura, se noi immaginiamo che il cambiamento possa avvenire in un cambiamento di lavoro possa avvenire in un'età intorno ai 45 anni, quali rischi corre chi decide di farlo appunto a quest'età o persino 5 o 6 anni dopo? I rischi ci sono sempre indipendentemente dall'età, ma io penso anche possiamo riflettere sull'opportunità. Una persona può avere. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto la dottoressa Gianni sui suoi argomenti. Credo una persona debba, mi rendo conto di essere un po' romantico, ma scoprire il tesoro che ognuno di noi ha dentro, cioè la passione, il motivo per cui siamo nati. C'è una bellissima frase di Mark Twain che dice: i due giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui nasci e il giorno in cui capisci perché. Ecco, se una persona capisce perché è nato, la passione che lo guida, le cose che lo rendono entusiasta e si rende conto che queste capacità sono poi vendibili nel mercato, indipendentemente dall'età ci sono comunque dei rischi, questo è vero, ma ci sono delle grandissime opportunità. Al momento c'è il 30% di persone che lavorano negli Stati Uniti che non sono dipendenti di aziende, si sono messe in proprio. Questo è un modello economico che è sempre più sviluppato e che nei paesi più avanzati, tipo gli paesi scandinavi, in Canada e in altri posti del mondo, è un trend continuo. Quindi io invito le persone a fare questa scelta una volta che abbiano scoperto il tesoro dentro di loro. Comunque il filone del cambiamento nel lavoro è un filone affascinante, sì. E noi torneremo a parlarne, nessuna è perfetta, non soltanto perché col cambiamento nel lavoro cambiano anche le tendenze e le attitudini, e spesso si è costretti poi anche a lasciare un'azienda e a mettersi in proprio perché l'azienda cortesemente ti spinge in quella direzione. Intanto comunque io ringrazio moltissimo Carla Ciani, la nostra coach, Paolo Gallo, capo risorse umane di World Economic Forum a Ginevra e autore del bel libro La bussola del successo. Buona domenica a voi e a voi che ci avete seguito. Ci sentiamo domenica prossima.